y pensamientos y riapro no esbato le parte de la città con le sue virtù imprevedibili sbalzi acrobatici e salti improbabili scherzi accademici. Qualcuno abbia espresso più volte il suo disappunto, la sua volontà, ridare a una pagina ciò che si merita, offrirgli una metrica degna di Bach, prendergli l'anima. Professionisti esperti ed addetti alla tecnica, insegne malintenzionate, parole crociate, antibiotici. Parate innevate, orchestre congegni elettronici, eventi sfumati, attrici e impresari daltonici, costumi e parrucche invecchiate, lasciate dormire sui mobili.